sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Tanzi in aula per il crack Parmalat, non sapevo nulla, si difende e punta il dito sulle banche, non avrebbero finanziato senza pensare di guadagnarci. All'Italia resta a terra, incassa meno di 100 milioni di euro, voli cancellati per lo sciopero e per la sicurezza. Può ancora volare? A extra large tra poco il presidente dell'ENAC. La recessione del sollevante, anche il Giappone scopre la crisi, in Italia si lavora per le misure di Natale. Gli iracheni con Washington nelle strade di Baghdad il giorno dopo l'accordo perché le truppe americane restino fino al 2011, solo commenti positivi. Se se ne vanno rischiamo la guerra civile, dice la gente. Il crimine più atroce della storia, l'accusa usa parole dure per la strage di Erba e annuncia la richiesta dell'ergastolo per i coniugi romano. Mani lunghe nei supermercati, sparisce merce per 3 miliardi di euro l'anno. Sapete qual è l'oggetto più rubato? Le lamette da barba. GR Extra Large, buongiorno e benvenuti da Alessio Maurizi. Ed Anna Migliorati. Il primo sintomo di quella che sarebbe diventata l'attuale crisi finanziaria. Così i magistrati, ricorderete, i magistrati di Milano avevano definito qualche tempo fa in aula la vicenda del crack Parmalat. Oggi a parlare è Callisto Tanzi, il protagonista principale di questa vicenda. E allora sentiamo cosa ha detto a Milano l'ex patron di Parmalat, imputato, lo ricordiamo, per aggiottaggio, ostacolo all'attività degli organi di vigilanza e concorso in falso dei revisori. In aula per noi c'era questa mattina Raffaella Calandro. Andra, che salutiamo, buona giornata. Sì, buongiorno. La prima volta aveva voluto chiedere scusa ai risparmiatori, ora il suo è soprattutto un atto d'accusa contro le banche. Alla vigilia della prima sentenza per il crack Parmalat al processo milanese per aggiotaggio, Callisto Tanzi torna in aula per dichiarazioni spontanee. Non esiste alcun tesoro nascosto, si difende l'ex patron della Parmalat. Si assume la responsabilità morale del crack da 14 miliardi. Tanzi ricostruisce poi la situazione di 5 anni fa e riconferma anche i suoi finanziamenti ai partiti per contributo alle idee o per lobbying, spiega, e poi va oltre. Sentiamo. Per mia conoscenza ed esperienza diretta non esiste alcun uomo politico, almeno fra quelli che io conosca, che possa avere il potere di indurre un banchiere a deliberare quantomeno uno soltanto degli importi finanziari da Parmalat o di indurre un banchiere a divenire lead manager, e cioè il garante del collocamento di un bond sul mercato senza che l'istituto di credito ne tragga un lucro più che apprezzabile. L'atto d'accusa contro le banche: non ci avrebbero finanziato senza pensare di guadagnarci, nota, inizia invece con l'affondo contro Chase Bank. Il suo responsabile in Italia ha introdotto Parmalat nel mondo bond, dice, puntando quel dito contro Bank of America, imputata in altro procedimento. Non sapevo che quei prodotti finanziari finissero ai privati, si difende Tanzi. Sentiamo. Quel che voglio affermare davanti alla mia coscienza è che mai ho ideato, mai ho avuto la consapevolezza che potesse nascere quella che è stata definita la grande truffa in danno dei risparmiatori. Mai ho immaginato che strumenti finanziari riservati esclusivamente agli operatori specializzati, in quanti privi delle dovute garanzie previste per l'offerta al retail, potessero in maniera capillare finire nelle tasche di tanti privati, con una diffusione a mio giudizio imprevedibile ed immaginabile da chiunque, al di fuori dei soggetti che avevano il potere di negoziare tali titoli. Raffaella, a questo punto quali potrebbero essere i tempi per la sentenza, tanto attesa naturalmente? Pomeriggio terminerà la ring il terzo difensore di Tanzi. A questo punto il presidente della Corte, Luisa Ponti, dirà la prossima data, il prossimo calendario, e già quella sarà la data in cui la Corte si riunirà per la Camera di Consiglio, quindi per la sentenza. Si vocifera un possibile 29 novembre. Daremo conferma nelle prossime edizioni di GR24. Grazie naturalmente a Raffaella Calandra. E dalla Parmalat all'Alitalia. Anche oggi per Alitalia voli a terra, 21 partenze, 19 arrivi cancellati a Fiumicino, ma se ne attendono altri in giornata. Regolare almeno per ora la situazione a Malpensa, ma oltre allo sciopero di piloti e hostess, a pisare ci sono ora anche le parole del commissario straordinario Augusto Fantozzi. In cassa, ha fatto sapere, rimangono meno di 100 milioni di euro e la soluzione potrebbe essere ora quella di lasciare a terra qualche volo per poter garantire la sicurezza di tutti gli altri. Alitalia dunque ha ancora i requisiti per volare in queste condizioni. azioni. Restate con noi perché tra poco lo chiederemo al presidente dell'ENAC, Vito Riggio, che sarà ospite ai nostri microfoni. Prime indiscrezioni intanto per quanto riguarda le misure anticrisi per l'Italia dopo il fine settimana che ha visto i vertici internazionali della finanza riunirsi nel G20. Sentiamo a che cosa si lavora in Italia. Andiamo alla Camera dove c'è il nostro Vincenzo Miglietta. Buongiorno. Sì, buongiorno. Un piano, come annunciato dal Ministro dell'Economia Tremonti, da 80 miliardi di euro, una cifra decisamente di grande impatto e molto articolata tra varie voci, circa la metà, lo ha spiegato lo stesso Tremonti, riguarderà i fondi europei e la loro pianificazione nel triennio. Alcuni comparti avranno la priorità nella ripartizione dei fondi provenienti da Bruxelles, ricerca, innovazione, ambiente e infrastrutture, ma il primo appuntamento riguarderà in settimana la riunione del CIPE, che ripartirà circa 16 miliardi tra grandi opere, mezzogiorno, energia e comunicazioni, con un impulso particolare alla banda larga. Vi è poi il capitolo imprese e famiglie, si attende un incontro per questo tra esecutive e parti sociali. Gli interventi allo studio tuttavia riguardano per le prime un aumento delle risorse per la cassa integrazione, un fondo per le garanzie sui crediti alle piccole e medie imprese, la possibilità di pagare l'IVA all'incasso della fattura. Per i lavoratori si punta alla proroga della detassazione degli straordinari, alla riduzione degli acconti fiscali di fine anno e a un fondo di garanzia per i prestiti agevolati per i nuovi nati. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Migliette. A Roma restiamo perché al Tribunale di Roma oggi è il giorno dell'udienza per direttissima per gli studenti coinvolti negli scontri, ricorderete, a Piazza Navona durante la manifestazione per l'università. L'udienza per direttissima dovrebbe iniziare tra pochissimi istanti, vi racconteremo cosa è stato deciso appena ci saranno notizie. Intanto però una novità c'è. Sì, parliamo degli studenti, che di quella che è stata denominata l'onda, che dopo tante proteste hanno messo a punto una loro proposta per l'università italiana. Gli studenti di tutta Italia si sono infatti riuniti nel fine settimana alla Sapienza a Roma e hanno messo a punto quello che è il loro progetto per l'università. A Roma gli studenti dell'Onda Anomala arrivarono venerdì scorso. A Roma, 2000 di loro, sono rimasti per tutto il fine settimana per mettere a punto all'Università La Sapienza il loro piano di riforma dal basso degli Atenei. Insomma, per non dire solo no alla riforma, ma per avanzare proposte concrete. Proposte condensate in 11 pagine che trattano di diritto allo studio, ricerca e didattica, tutte pubblicate con tanto di video su www.ateneinrivolta.org. 1. Abolizione del sistema del 3+2, così come del sistema del credito. 2. Critica alla parcellizzazione degli esami e proposte di riaccorpamento per favorire un sapere critico e complessivo. E poi ci sono l'abolizione dei blocchi all'accesso e della frequenza obbligatoria, la revisione dei piani di studio, l'abolizione delle fasce di docenza tra associati e ordinari e la richiesta di un'equa retribuzione del lavoro svolto da dottorandi, ricercatori, precari e studenti in stage e tirocinei. Chiediamo il superamento di tutte le forme, assegni di ricerca, assegni, contratti, varie forme che non hanno diritti e che sono sottopagate. Non mancano nemmeno le proposte per un welfare studentesco con l'attribuzione di una sorta di reddito indiretto per chi studia, ovvero mense, musei, trasporti, alloggi a prezzo nullo o quasi. Laura Bettini, GR24 e Sole 24 Ore. Torniamo ancora una volta questa mattina in un'aula di tribunale. Questa volta andiamo a Como per il processo per la strage di Erba, 11 dicembre di 2 anni fa. Parole durissime dall'accusa questa mattina a carico dei due imputati, Olindo Romano e Rosa Bassi. Giovanni Capuano. Sì, buongiorno. E oggi a Como è il giorno dell'accusa, il giorno in cui il pubblico ministero Massimo Astori ha cominciato a mettere in fila gli elementi che secondo lui devono portare alla condanna di Rosa e Olindo Romano per la strage dell'11 dicembre 2006, definita dal PM uno dei crimini più atroci della storia. Si tratta di un viaggio nell'orrore, ha detto il procuratore inizio requisitoria, poi anticipando di fatto anche quella che sarà la sua richiesta finale. Sentiamolo in questo passaggio. Preparatevi, perché oggi faremo un altro viaggio nell'orrore, perché questo processo è stato un viaggio nell'orrore, anche perché oggi è il momento del giudizio, della pacatezza, della freddezza, della riflessione. Oggi le tappe di quel viaggio verranno ricucite l'una all'altra e io sono sicuro che alla fine, se mi seguirete, avrete in un suo sguardo una visione chiara, netta, precisa di un percorso alla fine del quale potrete scrivere senza indugi, senza esitazioni, senza dubbi, quella parola che sinora è solo affiorata, ergastolo. poi il pubblico ministero a storia ha cominciato a ripercorrere in modo analitico tutte le fasi prima, durante e dopo la strage, un'analisi lunga, molto tecnica, percorsa aiutandosi con le immagini della scena del crimine e dei cadaveri. In aula Carlo Castagna, padre, marito, nonno di tre delle quattro vittime, Azuz Marzucchi, il marito di Raffaella Castagna, e i parenti dell'unico sopravvissuto, Luigi Frigerio. Carlo Castagna, prima di entrare in tribunale, ha detto: non voglio l'ergastolo, devono trovare il coraggio di percorrere il cammino di ravvedimento. E poi si è detto ancora disponibile a incontrare Rosa e Olindo anche via lettera in un prossimo futuro. La requisitoria del pubblico ministero Massimo Astori proseguirà anche nel pomeriggio, sono già in calendario altre tre udienze, la sentenza è attesa per settimana prossima. Grazie Giovanni Capuano. Ricorderete gli scontri con le bandiere cinesi issate di quella che venne chiamata la Chinatown di Milano, il quartiere Paolo Sarpi. Ebbene, oggi è diventata operativa la misura tanto contestata soprattutto dai commercianti cinesi e decisa dal comune di Milano. Parliamo della zona pedonale. E allora noi siamo andati a vedere com'è andata questa mattina con Stefano Totoro. Sì, buongiorno a voi e ai nostri ascoltatori. Via Paolo Sarpi ha un aspetto diverso. I carrelli dei commercianti cinesi che fino ad oggi andavano su e giù per trasportare la merce sono fermi, appoggiati alle vetrine dei negozi. Accanto i commercianti guardano la loro Chinatown milanese quasi increduli, come a dire: adesso come facciamo? Da oggi infatti è entrata in vigore la zona a traffico limitato, potranno entrare solo i residenti e solo dalle 10 alle 12.30 saranno possibili le operazioni di carico e scarico. Decine i vigili che stanno controllando la zona in questo momento danno indicazioni ai residenti che erano all'oscuro della misura del comune e anche ai commercianti cinesi, ma soprattutto hanno in mano il blocchetto per fare le multe. Questa è una misura voluta dal comune proprio per evitare il via vai del trasporto merci, ma sembra che questo provvedimento non piaccia soprattutto ai residenti. Non so cosa volevano risolvere facendo questo. Se volevano mandar via i cinesi penso che non lo risolvono, però non lo so. Perché hanno fatto vendere i negozi, hanno dato tutte le licenze e hanno fatto questo caos che la Paolo Sarpi per 30 anni era favolosa? Il problema dei carrelli c'è, ma però li hanno lasciati fare. Loro, i commercianti cinesi, si sentono nel mirino del comune e per ora cercano di organizzarsi come possono. Qua pagato tanto, capito? No, noi senza calelo, con mano, no? Così... Calelli non ci sono più, ma ci saranno sempre calelli, ma però non dà fastidio alla gente. Da via Paolo Sarpi è tutto, a voi. 13, 16 minuti e 30 secondi, GR24 extra large. All'Italia ancora cancellazioni di voli a Linate e Fiumicino. In cassa restano meno di 100 milioni di euro. Tra poco, extra large, il presidente dell'ENAC. L'ex patron di Parmalat, Calisto Tanzi, parla in aula al processo per il crack della compagnia. Ero all'oscuro della grande truffa, non ho mai pensato che i titoli fossero così diffusi nelle tasche di privati. Prosegue il viaggio nell'orrore, lo dice il pubblico ministero al processo per la strage di Erba, ma il padre di Raffaella Castagna: non voglio l'ergastolo, devono pentirsi. Dopo Eurolandia anche il Giappone è in recessione, ma oggi la borsa asiatica chiude positiva. Sarà il 1° dicembre, la data non rinviabile, come tutti ripetono, per la gestione dei voli all'Italia che passerà alla compagnia aerea italiana. Ma la via per arrivarci non è così semplice. Ci sono, come tutti sanno, le proteste di piloti e hostess, ci sono anche le casse dell'azienda che sono sempre più vuote. Da domani partiranno le prime lettere di assunzione nella compagnia. Insomma, questa è la settimana decisiva, ripetono dall'Alitalia e non solo. E allora noi ne parliamo con il presidente dell'ENAC, Vito Riggio. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Riggio, entriamo subito nel vivo. Meno di 100 milioni in cassa, 2,3 miliardi di debiti, inclusi 300 milioni del prestito ponte. Con questi numeri, secondo lei, Alitalia può volare? Ma insomma, il debito è tale da avere provocato la messa in amministrazione straordinaria. La situazione è una situazione straordinaria. Noi abbiamo dato una licenza provvisoria basandoci sul fatto che ci fosse un piano di risanamento, in questo caso il piano dell'acquirente. È evidente che la riduzione dell'operativo ormai è in atto, anche per la ragione che tutti vedono che non si riesce, visto il comportamento di alcuni, a far volare gli aerei previsti. Io penso che questo mese, con un'attenta regia, penso di istituire un comitato per la transizione in cui saranno rappresentati sia la vecchia che la nuova Alitalia e ovviamente l'ente di vigilanza, in modo tale da garantire soprattutto i passeggeri.

di chi non si curi, diciamo, di perdere ancora soldi. Ovviamente non è questa la posizione del commissario Fantozzi, il quale sa benissimo che ogni soldo perduto è sottratto ai creditori e quindi comporta delle precise responsabilità. Senta Riggio, mettendo naturalmente da parte la sfera di cristallo che non ce l'ha nessuno, però nelle sue previsioni questa odissea dell'Alitalia il primo dicembre è destinata a concludersi oppure potrebbero esserci secondo lei degli altri colpi di scena a questo punto? Ma guardi, per quello che vedo io, diciamo, le procedure sono ormai tutte avviate. Da parte nostra c'è stata una richiesta di certificato di operatore aereo formulato dalla compagnia aerea italiana il 23 e il 24 ottobre una richiesta di licenza commerciale. Noi abbiamo già istruito la pratica perché peraltro ci sono stati presentati, diciamo, assetti organizzativi e struttura di aerei che già conoscevamo perché sono quelli in precedenza usati dall'Italia, che ha semplificato la procedura. Naturalmente il materiale possesso degli aerei la CAI ce l'avrà soltanto nel momento in cui conclude l'affare, cioè si mette d'accordo sul prezzo e sulle modalità di versamento, e solo a quel punto potrà effettivamente avere il certificato, cosa che potrebbe benissimo avvenire alla fine del mese in modo tale da iniziare il primo. Io mi auguro che questo segni anche una svolta, perché adesso non c'è più l'Alitalia statale, c'è l'Alitalia di un gruppo privato, il quale peraltro dovrà poi dimostrare di essere in grado, avendo acquistato diciamo, gli asset, di farli funzionare. E vedremo dunque cosa succederà. Grazie per ora a Vito Riggio, presidente dell'ENAC, ricordiamo l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile. Grazie per essere stato con noi. A voi. Grazie. E dunque abbiamo saputo un comitato per la transizione, l'ENAC vigilerà direttamente su Alitalia, ma nel frattempo arrivano già le multe. Multa, certo. Cambiamo argomento, dopo altre voci, anche quella del ex Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, chiede ora l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti del G8. La richiesta, ha precisato il senatore a vita Cossiga, arriva dopo aver letto le recenti sentenze e soprattutto dopo le chiare e coraggiose parole del capo della Polizia Manganelli, ha detto Cossiga, che seppure indirettamente ha ammesso, Manganelli, che esistono fatti ancora ignoti o peggio tenuti nascosti. Ma come si vive all'interno del corpo di polizia tutta questa vicenda sollevata anche dalla lettera di Manganelli al quotidiano La Repubblica? Un'altra intervista di Extra Large, Cristina Carpinelli lo ha chiesto a Nicola Tanzi, segretario nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia. Sì, un cambiamento c'è la costituzione da parte del prefetto Manganelli, che ha dimostrato ancora una volta di essere un grande capo della polizia. Da parte del prefetto Manganelli la costituzione di una scuola di alta formazione per l'ordine pubblico. Ecco, però detto questo resta da discutere di quella che forse è stata una delle notti più nere del corpo di polizia, cioè sto parlando della Diaz. Certo. Però ci tengo a dire e a ripetere che la responsabilità penale in Italia per il nostro codice penale è personale. Quando riguarda la catena di comando è organizzata in una determinata maniera in tutte le forze di polizia, però è chiaro che se succede un evento sul posto non so quanto conta risalire la catena di comando se il fatto è successo in un determinato posto dove c'erano persone responsabili di quel servizio. Secondo me c'è solamente di avere fiducia nelle istituzioni e nella magistratura, che ha operato e ha operato bene. Ma perché dice che non c'è bisogno di una commissione d'inchiesta parlamentare? Ma perché non serve una commissione d'inchiesta? Se ci sono dei fatti accertati, c'è un processo in corso, no? A che cosa serve? A riaccertare ciò che è stato già accertato. Beh, però lo stesso Manganelli sostiene che ci sono ancora fatti ignoti o comunque non risolti. Noi abbiamo uno strumento diverso dallo strumento della magistratura, che è uno strumento di organizzazione interna per la disciplina interna, quindi può accertare qualsiasi cosa ma a livello amministrativo interno. Sono le 13:27, è il momento dei consigli del nostro gastronauta Davide Paolini. Oggi per il mezzogiorno di cuoco vi propongo un locale molto particolare, a Nola, in questo, diciamo, straordinario e grande mercato, centro di vendite di negozi che si chiama Vulcano, che è stato progettato da Renzo Piano. E all'interno esiste un wine bar elegantissimo, molto elegante, disegnato da un noto design newyorkese, anzi italiano che vive a New York, che si chiama Vignelli, ed è il wine bar dei Feudi di San Gregorio, che è un'azienda vinicola con sede a Sorbo Serpico in provincia d'Avellino. Ebbene, in questo wine bar si possono mangiare dei piatti caldi, c'è una tapas molto locale con prodotti locali, quindi una serie di stuzzichini, si possono mangiare delle zuppe, si possono mangiare anche dei panini che sono dei veri e propri piatti caldi, molto complessi, fatti molto bene, sono diciamo dei panini gastronomici. E soprattutto si può bere dell'ottimo vino con tutta diciamo la collezione dell'azienda appunto Feudi di San Gregorio, dalla Falanghina al Fiano all'Aglianico, quindi diciamo tutta una serie di vini che possono essere accostati con i piatti che vengono serviti. Buongiorno dal vostro gastronauta. 13:34 minuti, le notizie di oggi extra large. All'Italia resta a terra, voli cancellati per lo sciopero e per la sicurezza. A extra large il presidente dell'ENAC annuncia un comitato per la transizione e per l'azienda sono già arrivati 225.000 euro di multa. Ero all'oscuro della grande truffa, parole di Calisto Tanzi. Questa mattina era in aula a Milano sotto processo per il crack Parmalat. L'ex patron punta il dito sulle banche. Non dovrebbero esserci la detassazione delle tredicesime nel piano anticrisi del governo, ma l'ipotesi è uno sconto IRPEF. Esecutivo al lavoro per preparare il pacchetto di Natale. E intanto anche il Giappone scopre la crisi, il sollevante è ufficialmente in recessione. Si ruba nei supermercati merce per 3 miliardi di euro, ma a pagare non sono i negozi. Ad ogni famiglia tocca rimborsare per i furti altrui 160 euro ogni anno. Verso la richiesta dell'ergastolo per i coniugi romano, la strage di Erba è stato il crimine più atroce della storia. Le parole usate questa mattina in aula dall'accusa. E partiamo con gli scenari della crisi globale. Adesso le brutte notizie vengono dall'Asia, con il Giappone in recessione tecnica. La borsa di Tokyo però oggi ha chiuso positiva. Sentiamo. A ruota di Eurolandia, anche il Giappone finisce ufficialmente in recessione. Il prodotto interno lordo del sollevante si è contratto dello 0,4% su base annualizzata nel terzo trimestre, dopo una contrazione del 3,7% nel trimestre precedente. La borsa di Tokyo ha reagito oggi inizialmente con un forte ribasso, ma poi, complice la tendenza al rafforzamento del dollaro, l'indice Nikkei ha chiuso con un leggero rialzo dello 0,71% a quota 8.522,28 punti. La notizia di oggi conferma che le turbolenze finanziarie internazionali incidono sempre più sull'economia reale. Il Giappone vede la fine del suo più lungo ciclo espansivo del dopoguerra, iniziato a fine 2001. In più, la situazione negativa sembra destinata a durare, in quanto, dopo la fine del trimestre, lo yen si è ulteriormente rafforzato e la borsa di Tokyo ha perso un terzo del suo valore. La recessione, quindi, potrebbe essere più lunga di quella del 2001, che durò per 3 trimestri consecutivi. Stefano Carrer, GR24 Sole 24 Ore, Tokyo. Non conosce crisi, anzi il contrario, invece il volume economico dei furti in supermercati e centri commerciali. In Italia vale 3 miliardi di euro l'anno, dati presentati oggi dal Barometro 2008. Sono le lamette da barba, il prodotto che va più a ruba, letteralmente, nei supermercati. Nell'ultimo anno in Italia ne sono sparite dagli scaffali per oltre 15 milioni di euro. La voce più pesante nel bottino totale di merce sottratta, che quest'anno sfiora i 3 miliardi. E che finisce per ricadere sulle tasche degli italiani. 164 euro in più a famiglia sullo scontrino annuo della spesa, perché la grande distribuzione scarica il danno sui prezzi di vendita. La fotografia arriva come ogni anno dal barometro mondiale dei furti nel retail, messo a punto da Checkpoint Systems, società leader nella sicurezza nei punti vendita. Dopo le lamette, nella top 10 del furto da scaffale troviamo cartucce per stampanti, cosmetici, superalcolici. Ma le ultime tentazioni, i prodotti cioè che registrano il maggiore incremento rispetto al 2007, sono i capi d'abbigliamento e la lingerie più 18%, i cibi freschi più 16% e i prodotti di elettronica di consumo, telefonini, macchine fotografiche e DVD più 12%. Ma chi ruba nei supermercati? Nel 50% dei casi le mani leste sono quelle dei clienti, singoli o bande organizzate. Nel 30% si tratta di dipendenti infedeli e nel 7% circa di fornitori. Accanto ai ladri professionisti che preferiscono abbigliamento di lusso e prodotti tecnologici e a quelli per necessità, soprattutto anziani che mettono in borsa cibo poco costoso, pericoloso. Il profilo numericamente più ampio è costituito dai ladri occasionali, i dilettanti che agiscono d'impulso. Isabella Corradini, docente di psicologia sociale applicata al crimine. Una categoria molto ampia che comprende donne, comprende i soggetti maschili, comprende anche giovani, per esempio. Molto spesso è proprio l'alto valore simbolico che riveste il prodotto che favorisce quello che è poi il passaggio all'atto, quindi il compimento del furto. Pensiamo, non so, ai giovani, per esempio, no? Che rivolgono la loro attenzione a quelli che sono prodotti tecnologici, quindi l'iPod, il telefonino, oppure pensiamo alle donne e ai prodotti che più vengono sottratti, che riguardano la maglieria d'intimo, riguardano prodotti cosmetici. Al nono posto della classifica dei paesi europei in cui si ruba di più, guidata dalla Francia, l'Italia è il terzo paese al mondo per crescita del fenomeno, più 4%. Davanti a noi ci sono solo Austria e Svizzera, che però sono tra i paesi con la quota minore di furti in relazione alle vendite. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. C'è un'ultima ora che riguarda la vicenda Rai, commissione di vigilanza. Dopo l'elezione del senatore democratico Riccardo Villari alla presidenza della commissione, elezione votata però dai parlamentari del Partito delle Libertà, il segretario del PD Veltroni, come sapete, ha chiesto le dimissioni di Villari. Oggi doveva esserci un incontro chiarificatore tra i due. Ebbene, poco fa il portavoce del Partito Democratico ha chiesto all'Italia dei Valori una nuova rosa di nomi per sbloccare la situazione, quindi una nuova elezione alla presidenza di commissione vigilanza della RAI. I guai politici altrui, non ci sono solo i nostri. Andiamo sulle pagine dei giornali stranieri. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno, sì, partiamo dalle Figaro, che è un giornale che, lo ricordiamo, è dalla parte opposta del Partito Socialista, è un partito conservatore, quindi è un po' come se ci fosse un po' di compiacimento in questo titolo, che è Partito Socialista, il fiasco del congresso. C'è in realtà una bella foto di Ségolène Royal che stringe le mani alle persone che erano in prima fila al congresso, ma il fatto è che appunto questo congresso ha avuto un esito negativo, nel senso che non si capisce ancora bene chi tra Ségolène Royal e Martine Aubry, la cosa positiva è che sono due donne, guiderà il partito, e soprattutto se il partito riuscirà a fare davvero contro comune, un problema che conosciamo bene anche noi, un fronte comune contro tra virgolette naturalmente i partiti di governo, quindi il presidente Figaro e il presidente Sarkozy. Il problema della sinistra francese è che è molto divisa, esattamente come quella italiana, e che quindi finora Sarkozy ha avuto praticamente vita molto semplice per quanto riguarda l'opposizione. Giulia, noi ci siamo occupati abbastanza in Italia dei problemi che riguardano i ricercatori, invece in Inghilterra la notizia che riguarda la ricerca qual è? Ogni paese ha un po' il suo modo di affrontare le questioni. Qui la Gran Bretagna è un paese che spende molto più di noi in ricerca medica, però questa volta il Guardian denuncia in prima pagina che ci sarebbe un problema di privacy, perché il National Health System, che è un po' l'equivalente del nostro sistema sanitario nazionale, avrebbe deciso, per facilitare il lavoro dei ricercatori che hanno bisogno di raccogliere dati e di lavorare su questi dati, di dare libero accesso alle cartelle cliniche di chiunque sia stato sottoposto a una visita medica, un'operazione, sia entrato in un ospedale pubblico o privato. Questo naturalmente è a fin di bene, diciamo, a fin di ricerca, però allo stesso tempo è pericoloso, e quindi non è così facile che questa misura poi venga veramente approvata, anche perché si cercava di farlo un po' così di nascosto. Adesso con questa denuncia del Guardian probabilmente si aprirà un ampio dibattito. A domani, Giulia. A domani. Crivelli. E c'è un'altra notizia dell'ultima ora, un rapporto diffuso proprio un istante fa. Mancano ormai 2 settimane, lo ricordiamo, alla conferenza internazionale sul clima, quest'anno più che mai importante. Si aprirà a Poznań il 1 dicembre, e le Nazioni Unite hanno presentato un rapporto che denuncia un preoccupante aumento delle emissioni inquinanti in 40 paesi. L'aumento è quantificabile al 2,3%, e tra le maglie nere noi non ci siamo, c'è però l'Australia, il Canada, gli Stati Uniti, la Spagna e il Portogallo. In a world where it's so easy to connect to one another, we still remain very much disconnected. 3 milioni di contatti e oltre 40.000 messaggi ricevuti. Questi i numeri del sito su YouTube dal quale la regina Rania di Giordania, con questo perfetto inglese che stiamo sentendo in sottofondo, ha parlato al mondo intero di Islam, mondo arabo, in particolare delle donne. Il suo intento, quello di affrontare tutti i pregiudizi sul mondo arabo, sarà premiato il 22 novembre all'interno del YouTube Visionary Award, che si terrà a San Francisco. Anche un click sullo schermo del computer può fare la sua parte parte contro i pregiudizi verso arabi e musulmani. Questa è la motivazione per il premio alla moglie di re Abdallah II, Rania di Giordania. 13:46 minuti e GR 24 extra large. All'Italia resta a terra voli cancellati per lo sciopero e per la sicurezza. A extra large il presidente dell'ENAC annuncia un comitato per la transizione. Per l'azienda sono già arrivati 225.000 euro di multa. Ero all'oscuro della grande truffa, parole di Calisto Tanzi. Questa mattina era in aula a Milano sotto processo per il crack Parmalat. E Tanzi punta il dito sulle banche. Non dovrebbe esserci la detassazione delle tredicesime nel piano anticrisi del governo, ma l'ipotesi è di uno sconto IRPEF esecutivo al lavoro per preparare il pacchetto di Natale. Gli iracheni con Washington, piace l'accordo perché le truppe americane restino fino al 2011. E adesso andiamo subito a Roma, dove dovrebbe esserci notizia per quanto riguarda il processo per direttissima, per quanto riguarda gli scontri di Piazza Navona. Andrea Viali. Sì, esatto, c'è una prima sentenza, è stato assolto uno dei due giovani che erano stati arrestati e poi subito rimessi in libertà dopo i tafferugli di Piazza Navona del 29 ottobre. Si tratta di Michele Boimel, 19enne, studente di destra, militante del blocco studentesco. È stato giudicato questo ragazzo con rito abbreviato, era accusato di resistenza all'arresto e lesioni, ma anche secondo l'accusa le prove a suo carico raccolte dalla polizia non erano sufficienti, quindi l'accusa stessa aveva chiesto l'assoluzione. A processo c'è anche un altro giovane, Yassir Goretz, 33 anni, militante di Rifondazione Comunista, che invece sarà processato con il rito normale e l'udienza, però nel suo caso la sentenza si avrà nei prossimi giorni perché il giudice ha accolto il rinvio chiesto dalla difesa. Grazie dunque Andrea Viali, naturalmente continueremo a seguire la notizia. Ora però avevamo promesso la pagina internazionale. Sì, ieri il Consiglio dei Ministri iracheno ha approvato il nuovo accordo di sicurezza con gli Stati Uniti. Come sapete, un accordo che prevede il ritiro definitivo delle truppe americane entro il 2011. Sarà la fine dell'invasione militare iniziata nel marzo del 2003 con la cacciata di Saddam Hussein dal potere. Quali sono state le reazioni dell'opinione pubblica in Iraq? Ce ne parla Adib Fateh Ali. Nonostante l'ostilità annunciata da molti deputati iracheni al trattato di sicurezza con Washington approvato ieri dal governo, nelle strade di Baghdad la maggioranza degli iracheni si dice d'accordo alla sua ratifica. Oggi nessun quotidiano prende un'esplicita posizione contro l'accordo che prevede il ritiro delle truppe USA entro il 2011. I giornali sunniti e curdi invitano i deputati, chiamati a votarlo lunedì prossimo, alla loro storica responsabilità tenendo conto esclusivamente degli interessi della patria. Per molti iracheni una mancata ratifica sbalancherebbe le porte alle ingerenze dei paesi limitrofi accusati di finanziare terrorismo di Al-Qaeda. A sintetizzare il pensiero degli iracheni ci pensa un poliziotto della capitale interpellato da un giornale locale. Tutti vogliamo la partenza degli occupanti, ma non ora, perché non siamo pronti e solo gli americani possono evitare la guerra civile, perché il fuoco sotto le ceneri lasciati dal conflitto tra sciiti e sunniti arde ancora. Adib Fateh Ali, GR 24, Il Sole 24 Ore. E del ritiro dall'Iraq ha parlato naturalmente anche Barack Obama nella sua prima intervista televisiva dopo l'elezione alla presidenza degli Stati Uniti. As soon as I take office, I will call in the Joint Chiefs of Staff, my national security apparatus. Non appena sarò insediato, dice Obama alla CBS, daremo il via al piano di ritiro delle truppe americane, quindi dal 20 gennaio 2009. Dobbiamo agire soprattutto in considerazione dei problemi che stiamo riscontrando in Afghanistan, dove la situazione sta peggiorando, dobbiamo arginare questa deriva. E alla domanda su quanto sarà importante per la sua amministrazione catturare Osama Bin Laden, Obama risponde: è una priorità. Osama non è solo un simbolo, ma anche il leader operativo di un'organizzazione che ancora progetta attacchi agli Stati Uniti. Questo Obama. Adesso invece andiamo a Marrakech, in Marocco, con la nostra inviata. Per la prima volta un festival internazionale racconta il cinema ai non vedenti. C'erano stati esperimenti, ad esempio in Francia, ma questa volta accanto alla sezione ufficiale delle proiezioni esiste una sezione tutta dedicata ai film con l'audiodescrizione. Succede a Marrakech. L'idea è venuta a un kinesiterapista, Said Oumassou. Ci vogliono qualità umane, non competenze tecniche, spiega. Noi ci avvaliamo di traduttori di immagini che sappiano raccontare quello che manca a noi non vedenti quando assistiamo a un film. Ma in cosa consiste l'audiodescrizione? Olivier Bombarda, del canale televisivo franco-tedesco Arte, partner del festival marocchino. Il problema è come descrivere un'immagine, come farlo senza dare un giudizio, senza interferire con l'opera dei registi. Ogni descrizione deve essere sistemata in momenti molto precisi, tra un dialogo e l'altro, nei momenti di silenzio, rispettando il ritmo del film. Un lavoro non semplice ma necessario per dare la possibilità a tutti di avvicinare l'arte cinematografica. Noi siamo tutti handicappati perché on transporte avec nous. In fin dei conti abbiamo tutti un handicap, commenta il grande attore teatrale marocchino Mohamed Afifi. Il nostro handicap sta nel rifiuto che abbiamo degli altri. Se il rifiuto diventa partecipazione, conclude Afifi, allora sì che il mondo cambia. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore, Marrakesh. Ed è lunedì, per iniziare la nostra settimana prima di chiudere, il nostro Dizio Radio. Quella appena passata di settimana, lo sappiamo un po' tutti, per il nostro paese è stata una settimana, come si usa dire, di passione, no? Per quanto riguarda gli scioperi, c'è stato lo sciopero dei trasporti pubblici, poi anche dei treni, ma soprattutto nella settimana scorsa grandi agitazioni per quanto riguarda la compagnia Alitalia, no? Che sta per essere rilevata da CAI, e i dipendenti hanno indetto questo sciopero bianco, come è stato definito. Ci sono varie definizioni di sciopero, noi non entriamo comunque nel merito ovviamente della vicenda, ma qui come sempre cerco di spiegare con l'aiuto di un esperto il significato di certi termini che ritornano durante una settimana nei mezzi di comunicazione. C'è dall'altra parte Giuseppe Busia, giurista, studioso di diritto costituzionale ed esperto del Sole 24 Ore, al quale chiedo di spiegarci come è regolamentato lo sciopero in Italia. Sappiamo che è l'astensione collettiva da lavoro di lavoratori dipendenti per protestare per i loro diritti, eccetera, eccetera. Questo diritto costituzionalmente garantito per alcuni servizi essenziali, che sono quelli dei trasporti, che si riferiscono a in generale diritti costituzionalmente garantiti come il diritto alla salute, all'istruzione e altri, e quindi riguardano i settori della sanità, raccolta e smaltimento di rifiuti, approvvigionamento di energie, giustizia, oppure anche le poste e telecomunicazioni, lo sciopero è consentito ma a certe condizioni, con alcune garanzie. La prima di queste è il preavviso minimo, ed è il caso della settimana scorsa. Si deve almeno 10 giorni prima proclamare lo sciopero, quindi comunicarlo alla pubblica amministrazione, all'impresa interessata, perché possa organizzare il servizio in modo da garantire che ci sia comunque un qualche servizio e garantire l'informazione dei cittadini. 10 giorni prima, quindi, almeno. Poi un altro elemento importante, soprattutto in tema di trasporti, è quello dei minimi garantiti, cioè normalmente sulla base oraria alcuni voli, ad esempio per il trasporto aereo, devono essere garantiti, oppure i treni, e gli orari oggi prevedono già questo. Non ci può essere lo sciopero a oltranza, quindi bisogna predeterminare la durata, e vigila su questo una autorità indipendente, la Commissione di Garanzia per l'attuazione di questa legge sullo sciopero nei servizi pubblici e speciali, che è composta da 9 esperti nominati dal Presidente della Repubblica su designazione congiunta dei Presidenti delle Camere, e questi soggetti verificano appunto che gli scioperi siano legittimi e che siano rispettate queste cautele. Quindi scioperare si può, è un diritto costituzionale anche dei lavoratori, ma va contemperato col diritto dei cittadini di fruire alcuni servizi essenziali, proprio perché anche questi garantiti dalla Costituzione. Quindi, Giuseppe, è quando non vengono in alcuni casi rispettate queste regole, per esempio che c'è la precettazione, cioè vengono richiamati al lavoro per forza? Esattamente, in quel caso l'autorità di governo, che può essere il Presidente del Consiglio, il Ministro delegato o il Prefetto, emana un'ordinanza di precettazione, e questo fa sì che i servizi indispensabili siano comunque garantiti e quindi lo sciopero selvaggio venga meno. Grazie Giuseppe Busia, così abbiamo chiarito anche come è regolamentato nel nostro paese lo sciopero. Roberta Giordano vi dà appuntamento con Dizio Radio al prossimo lunedì. Voli cancellati per lo sciopero e per la sicurezza, l'Italia resta a terra. Extra large, il presidente dell'ENAC annuncia un comitato per la transizione, e per l'azienda già arrivati 225.000 euro di multa. Tanzi in aula per il crack Parmalat, non sapevo nulla, si difende, punta il dito sulle banche, non avrebbero finanziato senza pensare di guadagnarci.